schiaffa che c'è ad agosto qui in Italia. Vorrei andarmene a Ibiza. Adesso mi vado a bere qualcosa al bar perché c'ho un caldo incredibile. Barista, me la dai una tonica? Minchia che caldo, minchia che caldo, minchia che caldo, minchia che caldo, minchia che caldo, minchia che caldo, minchia che caldo, minchia che caldo, minchia che caldo, minchia che caldo, minchia che caldo, minchia che caldo, minchia che caldo, minchia che caldo. Minchia, sto spaccando di brutto! We'll be right back. data qua Ibiza.